3, c'è due file. Va bene. Buonasera, sistematevi che cominciamo. Allora, ricapitoliamo brevemente quello che abbiamo detto l'ultima volta. L'intenzione di Foucault nel corso Bisogna difendere la società è quello di, facciamo prima e ricorriamo al riassunto del corso, è quello di fare un'analisi dei rapporti di potere che prescinda dai concetti generali di sovranità, soggetto e legge, e quindi di basare lo studio del potere, dice nel riassunto finale, non a partire dai termini primitivi della relazione, ma a partire dalla relazione stessa, in quanto è proprio questa relazione a determinare gli elementi sui quali verte. Allora, questa sera e la prossima lezione cercherò anche di rispondere per quello che posso, insomma, ad alcune obiezioni che mi sono state fatte o ad alcune osservazioni critiche su Foucault, alla più importante delle quali spero, darò qualche risposta nell'ultima lezione, non in questa, e cioè all'obiezione secondo la quale Foucault avrebbe un'ottima pars destruens, un'ottima parte che demolisce ma sarebbe carente nella pars construens, cioè nella parte che deve proporre, e spero di... Non è una obiezione, come dire, stupida, ma anzi forse... però naturalmente cercherò di mettere in dubbio il fatto che ci debba essere una pars construens, insomma, che probabilmente non ha... Noi supponiamo di avere bisogno di pars construens, ma probabilmente non ne abbiamo alcun bisogno, anzi ci fanno più male di quello che noi pensiamo. Mentre oggi parlerò, mentre oggi forse riuscirò a discutere di qualcos'altro. Allora, quindi, analisi del, diciamo, potere, quindi analisi del potere svincolata da tutti i soggetti, da tutte le presupposizioni, da tutti i concetti di cui il potere sarebbe una articolazione, per analizzare invece, lui dice, i termini della stessa relazione. E in particolare, come dice, come tutto l'impianto del corso, vedere se è possibile parlare del potere partendo da un'analisi della guerra, cioè in termini di rapporti di guerra o di bellicosità. Ancora sul punto del metodo, che è quello su cui mi sono soffermato la gran parte del tempo l'ultima volta, vorrei semplicemente leggervi un passo che mi pare molto significativo di un altro corso successivo del 79, che è il corso che si chiama Nascita della biopolitica, anche se in realtà di biopolitica parla poco o sembra che ne parli poco, nel quale mi sembra che l'approccio metodologico e, diciamo, quello che io, insomma, sostengo, cioè che Foucault sia il più importante pensatore scettico del XX secolo, il più importante o uno dei più importanti, perché ce ne sono anche altri, Rorty, Castoriadis, eccetera, insomma, quello che... Questo testo, nell'arte della biopolitica, credo nella prima lezione o nella seconda lezione, se c'è la stessa mostra, uguale, che sta qua, abita qua, praticamente... cioè durante i 5 giorni, 6 giorni, non so che cosa fa, perché si annoierà come una pazza, o forse è, però dice, stasera c'è Caronia, dice, quindi gli possiamo dare noia a lui. D'altra parte, diciamo, siamo tutti animalisti, o alcuni vorrebbero che fossimo tutti animalisti, e quindi terremo conto anche di questo. Allora, a questo punto, insomma, non mi ricordo come diavolo comincia il discorso. Ah, no, però questo è il tema, se non sbaglio è il corso in cui viene enunciato il concetto di governamentalità, di cui non so se avremo in tempo a parlare, ma penso di no. Allora, dice, la scelta di parlare della pratica di governo o a partire da questa pratica è un modo molto esplicito di non considerare come oggetto primario, originario, già dato, un certo numero di nozioni, come ad esempio quella di sovrano, sovranità, popolo, sudditi, stato, società civile. Vale a dire tutti quegli universali che l'analisi sociologica utilizza, al pari dell'analisi storica e dell'analisi condotta dalla filosofia politica, per rendere conto della pratica di governo nel concreto. Da parte mia vorrei fare esattamente l'inverso e assumere come punto di partenza tale pratica per come si dà, ma anche per come riflette su se stessa e cerca di darsi una certa razionalità, il discorso della governamentalità, della pratica di governo, per vedere in che modo da un certo momento in poi alcune cose sul cui statuto dovremmo interrogarci possono effettivamente costituirsi, lo Stato e la società, il sovrano e i sudditi, eccetera eccetera, non partire da quei concetti e dire vediamo come si articolano, ma partire dalle pratiche per vedere come eventualmente questi concetti nascono, sorgono e figurano. Si tratta insomma in altri termini, anziché partire dagli universali per dedurne alcuni fenomeni concreti, o partire dagli universali come griglia di intelligibilità obbligatoria per un certo numero di pratiche concrete, vorrei partire dalle pratiche concrete e, per così dire, far passare gli universali attraverso la griglia di queste pratiche, far passare gli universali attraverso la griglia delle pratiche, non dedurre le pratiche o spiegare le pratiche con gli universali, ma fare esattamente il contrario. Si tratta insomma di evitare quella che potremmo chiamare una riduzione storicistica, che consiste nel partire dagli universali così come sono dati per vedere poi in che modo la storia li modula, li modifica o stabilisce infine che non hanno alcuna validità. Lo storicismo parte dall'universale e lo sottopone in un certo senso al vaglio della storia. Il mio problema è del tutto opposto, io parto da una decisione al tempo stesso teorica e metodologica che consiste nel dire supponiamo che gli universali non esistano, supponiamo che gli universali non esistano. Da qui in poi sottopongo la questione alla storia e agli storici, a cui chiedo è possibile scrivere la storia senza ammettere a priori che esistano cose quali lo Stato, la società, il sovrano, i sudditi? È la stessa domanda che ho sollevato a proposito della follia. Dunque, quello che vorrei mettere in atto qui è l'esatto contrario dello storicismo, non interrogare gli universali utilizzando come metodo critico la storia, bensì partire dalla decisione che afferma l'inesistenza degli universali per cercare di stabilire quale storia si può fare. Allora, io penso che questa è la cosa, soprattutto quello che ho letto, a me pare le righe più chiare in cui il metodo, tutto quello che si può chiamare metodo foucaultiano, non tutta la roba dell'analisi, del discorso, gli enunciati pesantissimi dell'archeologia, che poi lui infatti dopo non ha mai più utilizzato, li ha scritti in quel libro lì, poi non si è. Ma questo metodo, cioè quindi fare... Ora, bisogna difendere la società, fa esattamente questo, quindi processo, comincia a chiedersi, parte, come vi ho detto la volta scorsa, dai saperi assoggettati e da come questi saperi assoggettati a un certo punto in certi processi storici si ribellano, cercano di riprendere la parola, no? Allora, che cosa trova? Che cosa trova Foucault? Poi qui c'è il pezzo sulla dialettica che vi ho letto la volta scorsa. Foucault trova qui quella che lui chiama la teoria della guerra delle razze, cioè una storia non romana o antiromana, dice a un certo punto, cioè quello che lui chiama il primo discorso di tipo storico-politico che emerge agli inizi, alla fine del Medioevo o nel trapasso, nel passaggio tra Medioevo ed epoca moderna, per tentare di spiegare in questo modo lo sviluppo concreto dei rapporti di potere all'interno. Allora, qui faccio una breve, sperando di non tirarla troppo lunga, affrontiamo una prima possibile obiezione a questo discorso foucaultiano. Ma si potrebbe dire, tu non vuoi parlare di sovrano, non vuoi parlare di diritto in termini giuridici, non vuoi parlare di sovranità, insomma sovrano non nel senso di re, sovranità. Non vuoi parlare quindi di Stato, non vuoi parlare di queste cose qua, perché dici sono degli universali, non sappiamo come sono nati, perché dobbiamo prendere. Ma quando tu parli di potere, quando tu parli di guerra, quando tu parli, non usi tu, Michel Foucault, altrettanto dei concetti universali, non sono anch'essi degli universali, non si modulano anch'essi. Allora, mi permetto di fare un parallelo. Questa è esattamente la stessa situazione della, diciamo, linguistica, quando un chomskiano discute con un non chomskiano. Il chomskiano gli dice il linguaggio è un universale, tutti parlano, e il non chomskiano gli risponde, certo è vero, tutti quanti parliamo, tutti gli esseri umani sono caratterizzati dalla facoltà di linguaggio. Dice, bene, dice il chomskiano, allora devi concordare con me che c'è una struttura universale con cui tutti, se tutti gli esseri umani parlano, vuol dire che c'è una struttura universale del linguaggio e ci sono delle regole universali del linguaggio secondo cui tutti parlano e che poi si articola diversamente nelle varie lingue. Che cosa gli risponde il non chomskiano? Mi spiace, ma tu fai un salto logico. Tu stai identificando, tu stai arbitrariamente, arbitrariamente allo stato attuale delle conoscenze, poi se tu mi dimostri che c'è, io mi tolgo il cappello, dico va bene, ce l'hai fatta. Si dà il caso che né Chomsky né nessun altro chomskiano abbiano mai scoperto una mezza muffa regola di questo tipo. Però se un giorno l'altro dice, c'è questa regola, effettivamente le cose funzionano così. Finché tu non mi hai dimostrato questo, io mi limito a dire che c'è una universale, certamente, nessuno lo nega, facoltà di linguaggio, c'è una, come ci sono tante altre universali facoltà nell'essere umano, poche o tante che siano, che obiettivamente dipendono da ciò, dall'unica cosa che è universale negli esseri umani, cioè la biologia, la base, come dire, biologica. Ma tra questo e l'identificare in una struttura specifica, allora, la stessa cosa, una cosa molto analoga, si può porre tra termini che non sono concetti, cioè che sono anche concetti, ma che sono facilmente identificabili, immediatamente identificabili come pratiche. Per esempio il potere, per esempio la guerra. Guerra nel senso di scontro fisico, di rapporti fisici che comportano l'esplicazione di una certa violenza, di un certo grado di violenza tra esseri umani. Il non universalista, e non stupido, non negherà che queste sono delle, diciamo, caratteristiche presenti in tutti gli esseri umani. Ovunque ci siano società umane c'è qualche cosa, esistono una serie di relazioni che possiamo identificare come relazioni di potere, quindi come relazioni nelle quali c'è qualcheduno che domina, qualcheduno che è, come dire, dominato, c'è una più o meno generale rappresentarsi del fenomeno della guerra, cioè del fenomeno di confronti che utilizzano la violenza fisica per risolvere certi conflitti. Anche il concetto di conflitto è una pratica di questo tipo, non conosciamo alcuna società umana in cui non ci sia un qualche cosa chiamato, come dire, conflitto. Il salto logico, cioè dove sono gli universali cattivi, cioè gli universali ingiustificati, quelli che non servono, sono quei concetti nei quali queste pratiche di fondo, di base, identificabili nell'essere umano e nelle società umane in quanto tali, vengono elaborati e si dice, siccome c'è il potere in tutte le società, c'è una sovranità in tutte le società. Forse vi ho già detto, andate a leggere un bellissimo libro, se avete voglia e tempo, di un antropologo francese che si chiama Pierre Clastre, il libro si chiama La società contro lo Stato, in cui si vede dall'esame di numerosi casi particolari che il mondo è stato, che la storia dell'uomo è stata piena di società senza sovranità, in cui non c'era nulla di comparabile a quello che noi chiamiamo sovranità. E se poi andiamo a vedere anche all'interno di tutti gli stati che storicamente hanno utilizzato in qualche modo una pratica di sovranità, troveremo che è difficilissimo trovare qualche cosa di comune tra la struttura della polis greca, la struttura dell'impero romano, la struttura dell'impero persiano e quella dell'impero cinese nel secolo. Anche lì, eppure lì sono tutte società in cui più o meno si può dire che c'è una pratica della sovranità, certo c'è una pratica, a volte anche una teorizzazione, eccetera, ma anche questa sovranità. E comunque questa sovranità in quanto tale è qui che è, diciamo, il punto debole dell'universalismo, e la sua fallacia, il suo errore logico, cioè quello di trasformare la presa d'atto, il dato di fatto della esistenza generale di alcune pratiche all'interno più o meno di tutte le società conosciute, di trasformarla in una struttura, di trasformarla in un concetto articolato. Il tentativo foucaultiano è qui perché è, come dire, interessante, perché forse non per la prima volta, perché in fondo anche la storia della follia era in fondo questo, cioè si trattava di prendere un concetto dato per assodato, per assoluto, cioè, la follia c'è sempre stata, la follia non è stata, ci sono sempre stati i pazzi, cioè, e mostrare come il concetto di follia e le pratiche sociali ad esso collegate fossero diversissime nel Medioevo, agli inizi dell'età moderna, dopo la rivoluzione pinelliana, eccetera, e come tutti questi miti che ogni volta, perché ogni volta l'universalista dice, adesso arrivo io, faccio la rivoluzione e riportiamo alla luce finalmente il substrato universale che gli altri, il segreto che gli altri avevano nascosto, il non detto che gli altri avevano obliterato. È questa è questo il passo sbagliato. Quindi c'è una bella differenza tra il dire esiste la sovranità perché esiste il potere, e il dire esistono le regole di potere, andiamo a vedere come si, diciamo, strutturano. Nell'enunciato, nella proposizione esiste il potere, quindi esiste la sovranità, c'è una fallacia sia logica che empirica palese, patente, e se noi non la vediamo è perché, la corrente maggioritaria del pensiero umano, sin da quando è nata la filosofia, o da poco dopo, direbbe Nietzsche con Socrate, questo diciamo avviene, ma è chiaro che c'era già anche nei filosofi, come dire, precedenti, è sempre stata una tradizione di tipo universalistico. Cerchiamo non tanto ciò che c'è di comune, cioè si è sempre scambiato, cioè anche le risposte di Talete e di Anassimene alla domanda che cos'è la idea, che cos'è la materia originaria, peccano di uno, perché quando Aristide dice è l'acqua, quando Anassimene dice è l'aria, tra tutti e tre il meno universalista, come ben sapete, è Anassimandro, perché Anassimandro dice, sì, è l'Aperon. Ecco, e dice, e che cos'è l'Aperon? Ah, saperlo, l'Aperon è ciò che non è identificabile, ciò che non è definibile, ciò che non è. Quindi è la potenzialità. Deus sive natura, è la somma infinita delle potenzialità della natura, ma la somma infinita delle potenzialità non vuol dire assolutamente niente, cioè non è nulla di descrivibile in maniera, direbbe Foucault, positivo. Torniamo a noi. La teoria della guerra delle razze, quindi una guerra. Vorrei seguire, dice Foucault, la storia di questa teoria delle razze, o piuttosto di questa teoria della guerra delle razze durante la Rivoluzione francese, soprattutto all'inizio del XIX secolo, con Augustin e Amédée Thierry, due storici francesi legittimisti, conservatori, per non dire reazionari, dell'epoca della Restaurazione, appunto, per vedere come a partire da questo momento essa abbia subito due trascrizioni. Da un lato una trascrizione esplicitamente biologica, operata d'altronde ben prima di Darwin, e che attingerà il suo discorso con tutti i suoi elementi, i suoi concetti, il suo vocabolario, da una anatomofisiologia materialista. Essa si baserà inoltre su tutta una filologia e ciò darà luogo alla nascita della teoria delle razze nel senso storico-biologico del termine. Si tratta di una teoria ancora una volta assai ambigua, un po' come quello del secolo precedente, che in realtà poi lui non lo farà questo studio, però lo enuncia all'inizio. Vi è poi una seconda trascrizione, quella che avrà luogo a partire dal grande tema e dalla teoria della guerra sociale, che si sviluppa nei primissimi anni del XIX secolo e che tenderà a cancellare tutte le tracce del conflitto delle razze per definirsi come lotta di classe. Abbiamo dunque una sorta di biforcazione essenziale che tenterò di ridefinire e che corrisponderà ad un recupero dell'analisi di queste lotte nella forma della dialettica e a una ripresa del tema degli scontri delle razze all'interno della teoria dell'evoluzionismo e della lotta per la vita. Poi dopo un po', se non sbaglio, cita la famosa esclamazione di Petrarca, ma c'è mai stata una storia che non fosse una glorificazione di Roma? E lui tenta di rispondere che sì, in effetti c'è stata, ed è quel discorso storico-politico delle razze che lui vede emergere in due, e ci dà due, diciamo, esempi. Uno che analizza meno a lungo, ed è quello della lotta, della nobiltà inglese contro l'assolutismo monarchico ai tempi della grande rivoluzione inglese, quindi poco prima della decapitazione del re e dell'avvento di Cromwell, negli anni intorno al 1630, grosso modo. E poi dice 50 anni più tardi in Francia, quando c'è un analogo, in Francia la cosa è un po' più complessa, è più complessa anche in Inghilterra, ma in Francia è più complessa perché poi questo è quello che porterà alla grande rivoluzione, alla rivoluzione francese, in cui, più esplicitamente che non in Inghilterra, gli elementi sono tre, in realtà erano tre anche in Inghilterra, ma il terzo elemento in Inghilterra è molto debole, e sono i movimenti radicali dei cosiddetti Levelers, i Diggers, eccetera, che infatti sono considerati spesso, per esempio, dai movimenti underground del Novecento in Europa come i loro precursori, come alcuni tra i loro precursori, però obiettivamente non hanno avuto l'impatto sociale che ha avuto invece in Francia il terzo stato, quello che poi ha fatto la rivoluzione. La tripolarità francese è il potere assoluto monarchico e tutto l'apparato dello Stato costruito fondamentalmente da Luigi XIV sulla base di quello che hanno fatto i suoi predecessori, ma diciamo sviluppato potentemente da lui, la nobiltà spossessata contro cui Luigi XIV fece la lotta per tutto il suo regno, e il terzo stato, cioè la borghesia, sarà ovviamente quest'ultimo, voi tutti quanti sapete, nel corso della, diciamo, che riuscirà, siccome è più astuto di altri, anche per una serie di motivi che non possono essere puramente ricondotti a motivi economici, secondo la vulgata marxista, insomma, del Massimo Volgare, che il marxismo non c'entra nulla, povero. Attraverso una serie di complessi motivi, questa terza, diciamo, componente, cioè la componente borghese imprenditoriale in fondo, perché, insomma, sarà quella che riuscirà a compattare tutti gli strati sociali più bassi, diciamo inferiori, quelli che Marx avrebbe chiamato sottoproletariato, perché in grosso modo erano così, o artigiani dell'infima, degli strati più, insomma, bassi, o manovali, insomma, cioè quella forma di lavoro manuale che era molto diffusa anche prima della nascita della fabbrica, quindi ci sono stati gli operai, tra virgolette, anche quella. La borghesia francese riesce a compattare insieme questa cosa con la loro forza numerica, politica, morale, con la loro incazzatura, comunque riuscirà a, gli darà una forma che è quella dei Robespierre, dei Saint-Joseph, quindi la retorica rivoluzionaria, eccetera, ma ovviamente nessuno di questi, né Robespierre, né Saint-Just, né come dire, nessuno dei capi, dei leader di nessuna fazione della Repubblica francese era un, insomma, veniva dal virgolette popolo, insomma, erano tutti professionisti, come poi sarà il movimento operaio, insomma, cioè troviamo qualche operaio, certo c'è stato di tanto in tanto, ce n'erano anche bravissimi, gente, io ne ho conosciuti di persona in potere operaio, l'operaio Sbrogio del petrolchimico di Porto Marghera conosceva Marx sicuramente meglio di quanto non lo conoscesse Toni Negri, ma insomma sono dei casi, diciamo, singoli, cioè la direzione, lo strato sociale da cui provengono sono venute tutte le direzioni, cose sono sempre strati borghesi o piccolo, insomma, borghesi, va bene. Allora, queste sono le due cose, insomma. A un certo punto Foucault introduce due diversi modelli, dice che tipo di storia, che tipo di caratteristica ha questo discorso storico-politico che fanno queste, che fa in genere, dice, storicamente lui vede che questo discorso storico, come dire, politico, di tipo non sovranistico, di tipo non, diciamo, giuridico, ma di tipo che lui dirà storico, lo fanno prevalentemente, sono i nobili e insieme anche alle componenti borghesi, ma in modi diversi. Questo, diciamo, lo vede sia nel caso inglese che nel caso francese. Dice, cioè, da un lato c'è un modello, diciamo, quella che lui chiama la storia romana. Siccome i romani sono stati quelli che, sia durante la Repubblica, la fase repubblicana, sia durante l'impero, sono, voi tutti sapete che, insomma, una delle, probabilmente l'unica reale, insomma, diciamo, l'unico reale contributo della civiltà romana alla cultura occidentale sta in quel campo lì, insomma, in campo, diciamo, giuridico, perché né in campo filosofico né in campo letterario. So che molte persone discordano con me su quest'ultima cosa, ma la prima era mia sorella con cui facevo litigate furibonde su questa cosa, ma insomma io considero Virgilio un pallido imitatore di Omero e salverei solo Lucrezio forse, però anche Lucrezio, se non c'era Epicuro, ci aveva ben poco da scrivere, insomma. Quindi, diciamo, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista giuridico invece no, cioè il sistema giuridico romano è stato, infatti si è visto poi la fortuna che ha avuto dopo. Allora, c'è una concezione, diciamo, che lui dice della storia, come dire, romana, che è una concezione di tipo fondazionalista, possiamo dire, cioè c'è un, come dire, fondamento. La storia è la realizzazione progressiva dell'idea di Stato. Tutto sommato Hegel, insomma, tanto per capirci, la filosofia del diritto di Hegel, insomma. e dice lui invece una storia biblica. Perché la chiama storia biblica? Perché è nella storia biblica che appaiono questi strani personaggi, a partire dal più conosciuto, il più famoso di loro, che è Mosè, diciamo che sono una via di mezzo tra capi religiosi, profeti, capi militari, i quali teorizzano, propagandano tra le masse e organizzano il rovesciamento diciamo politico-sociale all'interno della propria, come dire, società, ovviamente per realizzare una qualche forma di, chiamiamola pure con il suo nome, insomma, di teocrazia, ma che diciamo, al di là di questo approccio di tipo, come dire, teocratico, però introducono una concezione della storia in cui che in qualche maniera, adesso non so, non ricordo bene, se potete andare a vedere, forse non dice proprio così, ma io ve la commento così. Una concezione della storia che non è dialettica, che è antidialettica, è quella romana che è, come dire, dialettica, perché il modello giuridico ha questa caratteristica che certamente prende atto, tiene del conflitto, no? Sia tra privati che tra gruppi, eccetera, eccetera, ma poi lo riassume, lo mette insieme con la, diciamo, dialettica, detto in termini, insomma, diciamo, l'apologo di Menenio Agrippa è un ottimo esempio di, diciamo, dialettica, perché l'apologo di Menenio Agrippa dice, ma voi siete lo stomaco, noi siamo la ragione, bisogna mettere tutti d'accordo, quindi certo, magari lo stomaco brontola un po', poi i muscoli si vogliono muovere, la testa vuole fare per conto suo, ma alla fine poi l'equilibrio del corpo porta a una, è una sorta di recupero dialettico delle tensioni. Mentre nella storia biblica, dice lui, questa cosa non c'è, è un tipo di modello che porta invece allo scoppio e alla risoluzione in qualche modo violenta del conflitto, che può essere lo sterminio dei cananei, lo sterminio dei filistei, o può essere Geova che si incazza e manda il fulmine e manda le sette o dieci piaghe d'Egitto, non mi ricordo mai, sette credo. Le dieci piaghe d'Egitto, e so, oppure apre il Mar Rosso, cioè la Bibbia è piena di diciamo risoluzioni violente, sono pochi i conflitti della Bibbia, che nessun conflitto si risolve nella Bibbia, si risolve in maniera dialettica. Certo, vincono sempre, secondo la loro ricostruzione, vincono sempre o quasi sempre, poi c'è qualche periodo sfigato anche per gli ebrei, poveri, ma ricordo, perché ovviamente hanno l'alleato più, cioè, potente, l'unico Dio veramente, come dire, potente è il loro. Il secondo passo storico-politico che fa Foucault in questo saggio è, ve l'ho già accennato la volta scorsa ma non l'abbiamo sviluppato, forse è meglio svilupparlo un po', è quello di Hobbes e di Machiavelli, ma il suo grande coso ovviamente è Hobbes. Oggi vorrei tentare di vedere, dice nella lezione del 4 febbraio 76, in che modo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo la guerra abbia iniziato ad apparire come strumento di analisi dei rapporti di potere. Naturalmente c'è un nome in cui ci si imbatte subito, è quello di Hobbes. C'è già Hobbes, che l'ha detto Hobbes, la società nasce da questo stato di natura in cui c'è la guerra di tutti contro tutti, e gli esseri umani volontariamente abdicano a una parte del proprio potere, lo conferiscono a qualcuno che è appunto il sovrano. Non so se in questa pagina o poco prima, Foucault fa riferimento al frontespizio della prima edizione inglese del Leviatano, in cui si vede questa figura fatta, adesso non l'ho cercata, no? Comunque ve la andate a cercare su internet, credo che si trova, questa specie di corpo collettivo formato da tanti corpicini, piccolini, tutti gli esseri umani messi insieme, là, ecco, ovviamente sulla testa c'è il re, cioè c'è il sovrano che è con la spada che era in una mano e la bilancia della giustizia nell'altro, fa lo Stato e fa la cosa, c'è questa bella. Bene, la, chiamiamola pure, destrutturazione o decostruzione, ma non in senso deridiano, del discorso hobbesiano sulla guerra è una delle cose più brillanti, secondo me, che abbia mai scritto, come dire, Foucault. Ed è peraltro semplicissima. Foucault rovescia totalmente, dice, guardate che Hobbes non ha mai nello stato di natura di Hobbes non c'è la guerra, non c'è nessuna guerra nello stato di Hobbes. Se Hobbes dice che c'è la guerra di tutti contro tutti soltanto come una minaccia, quando Hobbes parla di questo mitico stato di natura, poi dopo diventiamo tutte le critiche con l'antropologia moderna che non è mai esistito, ma questo già se, vale la stessa roba, vale ovviamente per Rousseau, che si è inventato anche lui in termini diversi un altro stato di natura che non è mai esistito. Ma tutto questo viene dopo, basandosi sulla pura e semplice lettera del testo hobbesiano, Foucault dice, guardate che nello stato di natura di Hobbes la guerra non c'è. C'è la minaccia della guerra, c'è la paura della guerra. La gente, nelle pagine, diciamo, di Hobbes, sta lì, nello stato di natura, stanno lì che si guardano in cagnesco l'uno con l'altro, con un mazzapicchio nodoso in mano o una clava nodosa dietro la schiena, ma si guardano bene dal darla sulla testa degli altri. Se ci fosse stata la guerra, ci sarebbero dei vincitori e dei vinti, ci sarebbe qualcuno che avrebbe vinto, non sarebbe stato alcun bisogno di contratto sociale. Quello che aveva il mazzapicchio più grosso o si era fatto la cura di steroidi più grosso avrebbe sopraffatto gli altri ed era chiusa lì, che mi frega di fare il contratto sociale. Sei lì nella polvere, ti ho massacrato, basta, che è chiuso. Se c'è un contratto sociale è perché la gente non ha mai combattuto. È perché la gente ha detto, accidenti, se ci fosse una guerra, però dico, è il pensiero della guerra, la paura della guerra. Diciamo, posso, è meglio che ci mettiamo in una condizione in cui le ghiande che ho raccolto per il mio maiale non me le ruba nessuno e che non gli debba fare la guardia io tutta la notte con la clava in mano, o che non debba spendere un'ira di Dio per mettere le telecamere su tutto su tutto il muro del giardino. Non c'è nessuna guerra nello stato di natura di Hobbes, c'è una minaccia della guerra. L'analisi che lui fa è molto più approfondita e più lunga, adesso ve la guardate, ve la leggete, eccetera, eccetera. Ma perché Foucault fa questo discorso? Se io ve l'ho semplificata e anche ridicolizzata è molto più chiaro così, ma se tento di articolare il discorso non finisco più e quindi è meglio che non ve lo dico, insomma. È meglio che non ve lo dico. Allora, ma cioè, perché in realtà Foucault fa questa operazione? Perché e qui vedete che è sempre il metodo genealogico che è stato fuori anche nell'analisi dei testi, perché lui dice però è strano che ci sia questa insistenza così forte di Hobbes, il quale dopo aver detto la guerra di tutti contro tutti eccetera, in realtà poi quando esamina i suoi tre tipi, lui definisce tre tipi di sovranità, come sono più quella per acquisizione, quella per istituzione e la terza, che non me la ricordo più perché non sono uno studioso di Hobbes, quindi sovranità di istituzione, sovranità di acquisizione e sovranità come la chiama, che è quella che lega il bambino alla madre. Ed è su questa terza che lui discute, dice. Perché, come dice, in qualche maniera Hobbes dice, in nessun caso il bambino può vivere senza i genitori, cioè l'individuo non può vivere senza lo Stato, perché è lo Stato quello che gli somministra le cose, che gli dà le cose, eccetera. Come il bambino nei confronti della madre, il bambino non può vivere senza la madre, la mamma che gli dà da mangiare, cioè, quindi c'è una dipendenza, e qui vedete che la guerra è totalmente scomparsa, non c'è guerra tra la madre e il, come dire, bambino, non c'è, ma non c'è guerra in realtà neanche nei primi due casi. Allora Foucault fa, voi dite è, come dire, un complottista, cioè è uno che va a, diciamo, cercare il taciuto, il nascosto, eccetera. Entro certi limiti, sì, è un pensatore del sospetto, come Marx, Nietzsche, Freud. Certo, sospetta, perché dice, ma perché Hobbes ce l'ha così tanto dopo aver detto, perché ha messo questa questione della guerra al centro del discorso all'inizio, poi se n'è non soltanto dimenticata, ma fa di tutto per dimostrarsi che la sovranità è totalmente indipendente dalla guerra, che in realtà sono altre le questioni. Allora dice, vuol dire che all'epoca ci doveva essere un discorso diverso, un discorso che faceva discendere la sovranità dalla guerra, che individuava nella guerra l'origine, nel senso di Entstehung, non di Ursprung, l'origine, è questo discorso, che ovviamente Hobbes non cita mai, perché qui Foucault non lo dice, ma potremmo aggiungerlo noi, perché spesso gli avversari più significativi sono quelli di cui non si parla, gli interlocutori anche più significativi sono quelli che vengono nascosti, quelli che vengono esclusi, quelli che vengono, ma c'è questo discorso. E esattamente Foucault identifica questo discorso esattamente in questo discorso sulla storia delle razze. E dice, al di sotto o al di sopra o lateralmente, insomma, in un altro luogo rispetto alla tradizionale tripartizione dumesiliana delle società indo-europee, cioè le tre funzioni, come dire, fondamentali che Mesil, ben prima di Foucault, individuò nelle società europee dall'analisi dei miti, eccetera, che è la funzione sovrana, la funzione della sovranità, che mette insieme, che tiene insieme, diciamo, l'aspetto magico e quello dell'esercizio concreto del potere, ma insomma la sovranità, quindi magico, religioso, tutta la religione sta in questa dimensione, con la sovranità. La funzione appunto della guerra, la dimensione America, come mai c'è, come mai nell'analisi di Mesil una delle tre funzioni principali è quella di guerriera? Come mai c'è un dio della guerra in tutte, in tutte le culture indo-europee? E poi la funzione produttiva, cioè la funzione delle persone che... Allora, al di là di questo discorso, che è un discorso tripartito, ma che in qualche maniera presuppone, certo, uno stato mitico di conflitto, ma poi in tutta la storia, nella Teogonia di Esiodo, nell'Edda poetica, in tutti i documenti che possediamo delle varie religioni, delle varie cosmologie o delle varie indo come dire, europee, c'è sempre la guerra all'inizio fra due diversi gruppi, diciamo, di dei, che secondo poi Dumézil sarebbero i tre poli della società, con due che si alleano contro il terzo, insomma, di fatto, quasi sempre la guerra e la sovranità si alleano contro la produzione, come è ovvio, e però alla fine poi c'è l'accordo. Una volta che Zeus ha vinto i titani, una volta che Odin o Wodan ha vinto, che i dei asi hanno vinto i dei vani, non solo c'è l'accordo, ma c'è una unitarietà sociale, e la tripartizione funzionale è già espressione di una società armonica che funziona, eccetera. Sotto a questo discorso, dietro o sotto a questo discorso, dice Foucault, c'è un discorso invece binario, bipartito. La società non è unica, non è unita. La società è in genere, perché è il prodotto di una invasione, di qualcuno che ha invaso un altro territorio, e quindi la società è basata su due gruppi differenti, due razze diverse, razze nel senso, non nel senso biologico, due gruppi, due etnie, due gruppi sociali che a volte parlano lingue diverse, che hanno una storia diversa. La cosa è chiarissima nel caso dell'Inghilterra, chiarissima. La storia inglese comincia, tutti quanti sapete, quella inglese, non dico moderna, ma insomma medievale, insomma moderna, uscito dalla bruma, delle robe di Re Artù e delle altre cose di Saxo Grammaticus, sapete tutti, con la battaglia di Hastings del 1066, in cui un gruppetto di guerrieri normanni provenienti dal continente, un gruppetto non più di 60.000 persone tra guerrieri e gente al seguito, vincendo i sassoni nella battaglia di Hastings, miracolosamente bisogna dire, perché come fanno, 60.000 persone dominano, sarà stati 3 milioni, 4 milioni i sassoni, vabbè, li hai vinti durante la battaglia, ma come diavolo hai fatto poi a mantenere questa cosa? Adesso noi sappiamo perché, Foucault non lo dice, ma perché per una serie di motivi, insomma, di motivi realistici, ovviamente Guglielmo Conquistatore, che per tutta la vita cercò di non farsi chiamare Conquistatore, perché la sua politica era quella di tentare di far dimenticare questa sua origine violenta di presa del potere, ma che poi tutti chiamavano lo stesso William the Conqueror, e William the Conqueror rimase nei libri di storia dell'età, diciamo, William the Conqueror e i Normanni disponevano di una cavalleria pesante, cosa di cui i Sassoni non disponevano. E perché i Sassoni non disponevano? Perché, ahimè, loro non conoscevano una abbastanza recente invenzione tecnica, recente per l'epoca, che è la staffa. Voi sapete tutti che senza le staffe la cavalleria pesante è impossibile, cioè può essere solo una cavalleria leggera, gente che non porta 150 kg di metallo addosso, perché se voi salite a cavallo con 150 kg di metallo addosso, al primo scarto del cavallo finite per terra, quindi non c'è autorità di fare nessuna, ed è per questo che non c'è mai in tutta la storia, né dell'Oriente né dell'Occidente, una cavalleria pesante, sino esattamente all'inizio dell'anno 1000, quando qualcuno, fortunatamente, dopo che era stata già inventata 10.000 volte, era stata scartata, come era successo millenni prima per il basto degli animali, altra grande invenzione, no, prima del basto gli mettevano una cavetta al collo, corda in mezzo alle zampe, frusta, pungolo e via. Ovviamente dopo tre passi il bue si strozzava, allora non era colpa sua, il contadino lo sapeva, però doveva fermarsi, aveva cosa, togliere la ratola sua, vabbè. Col basto all'improvviso diceva, ah, miseria, geniale, però guarda un po', non gli strozzo il collo, gli metto una roba sulle spalle, la ratola si guida così, non ho più bisogno di... questa è la storia, come dire, del mondo. Allora, chiusa la parentesi sulla storia, diciamo, tecnologica, questa è, come dire, un altro esempio di quelle famose pratiche non discorsive che poi, diciamo, si riflettono anche sulle pratiche, diciamo, discorsive, come era detto Foucault. Allora, quindi questa cosa è chiara. Questa questione della dominazione, allora, che però che cosa porta come conseguenza la, come dire, dominazione? Che anche secoli dopo, che anche tre secoli dopo, quattro secoli dopo, non è scomparsa la memoria, il ricordo dell'invasione. I nobili possono dire, giustamente, mi ha fatto una grande gioia vedere che Michel Foucault cita uno dei romanzi della mia infanzia, che per voi sarà probabilmente un film della vostra infanzia, che è Ivano. Ivano parla esattamente di questo, parla esattamente dei rapporti tra Sassoni e Normanni qualche secolo dopo, ma c'è quella tematica lì, cioè sono quelli belli, biondi, alti, eccetera, sono i Normanni, mica sono i Sassoni piccoli brutti, e senza la cavalleria pesante, che è per questa, si è detto per inciso, l'assenza di una cavalleria pesante è quella che consente agli arabi di stabilirsi in Spagna nell'ottavo secolo, cioè dopo la battaglia di Poitiers, quando Carlo Martello li sconfigge e loro devono passare i Pirenei. Perché l'assenza della staffa è questa cosa? Perché se Carlo Martello avesse avuto una cavalleria pesante nell'800 e rotti, quanto? 742, io ho sempre sbagliato secolo, in quell'anno lì, insomma, nella battaglia di, di, come dire, Poitiers, lui ferma gli arabi che hanno derubato la Spagna, ma sono appena, si stanno espandendo in tutta l'Europa, hanno passato i Pirenei e diciamo Carlo Martello li ferma a Poitiers. Li ferma a Poitiers perché ha una buona fanteria, gli arabi hanno una bellissima cavalleria veloce, ma sono tutti arcieri, non hanno nulla di molto grande, eccetera, ma non li può inseguire. Li ferma, li blocca, questi tornano indietro, decidono che non, vabbè, la Francia potrebbe pure tenerla, però questi ripassano i Pirenei, dove tutti quanti sapete succede la famosa roba di Roncisvalle, da cui nascerà tutto il ciclo, diciamo, carolingio, poi insomma, anche se però nasce da lì, da insomma, questi episodi. E quindi, non avendo la possibilità di trasferire una macchina bellica sufficientemente forte dal sud della Francia, al di là dei, come dire, Pirenei, cioè soltanto Annibale era riuscito secoli prima a convincere alcuni elefanti, ma non sappiamo neanche bene come, è una questione storica ancora molto dibattuta di dove siamo passati questi diavolo di elefanti, qualcuno c'era, qualcuno li ha visti, non è, è impossibile che siamo, ma come si arriva, pare che siate soltanto per nave, mica detto, però no, c'è questa idea, Tito Livio dice che hanno passato le Alpi, quindi non sappiamo bene come, insomma, chiusa la parentesi, ne faccio troppe parentesi. Torniamo a noi allora, insomma, le due razze, no? C'è la storia di queste razze. Allora, naturalmente, semplificando, i discendenti dei normanni diranno: ma che ci rompete le scatole a fare? Vi abbiamo già vinto, ai sassoni, o ai discendenti dei sassoni, abbiamo già regolato i conti con voi, vi abbiamo vinto ad Hastings, voi siete insomma, sudditi, non ci rompete le scatole, questa è la vostra cosa. I discendenti dei sassoni diranno: eh no, noi siamo qua e resistiamo, e come dire, non c'è mai nessun conto nella storia chiuso. Potremmo benissimo far valere, non ce l'hanno fatta poi, ma insomma, potremmo benissimo far valere la nostra superiorità numerica e farvi, ma entrambi partono, c'è una visione della storia di un paese, di una come comunità, che non vede questo paese come una comunità unita, ma lo vede spaccato in due, diviso in due. La cosa è ancora più chiara, un po' perché Foucault è francese, un po' perché sono passati 50-60 anni, quando Foucault vede lo stesso discorso che emerge e viene fuori verso la fine del regno di Luigi XIV, quindi negli ultimi anni del XVII secolo, quando un nobile, un intellettuale, eccetera, eccetera, si trova investito dal re del compito di riassumere tutto l'insieme di conoscenze che una poderosa commissione reale ha raccolto nel corso di anni su tutta la Francia, su come è fatta la Francia, non solo sulla storia ma sulla struttura produttiva, eccetera, e il duca di Borgogna, che è l'erede, quello che dovrà prendere il posto di dirigismo, deve essere istruito. Solo che, accidenti, il compito di istruire il duca di Borgogna viene dato, non è ben chiaro perché, insomma, non a un fedele di Luigi XIV, ma a uno degli esponenti della nobiltà, i quali, dopo le batoste prese per 30 anni di fila da Luigi XIV, medita o tenta addirittura di organizzare una sorta di vendetta, di contrattacco, di quello che sia. Poi alla nobiltà non riuscirà questo, riuscì grosso modo in Inghilterra, grosso modo, e infatti la forma di, diciamo, l'esautoramento del potere nella rivoluzione inglese deriva esattamente dal fatto che i nobili, poi dopo la borghesia, venne dopo in Inghilterra, diciamo. Quello che in Francia fu concentrato nei 7-10 anni del punto alto della, con la rivoluzione, in Inghilterra si stemperò, si diluì per circa un secolo. Diciamo, anche lì l'aristocrazia ribelle aprì la strada alla borghesia. Grosso modo, come in Francia, Foglianti e Girondini, Mirabeau, Lafayette aprirono la strada a Robespierre, Saint-Just, all'ala, prima ai Girondini e poi ai Giacobini, cioè all'ala diciamo radicale. Però il tutto avvenne in un periodo molto concentrato, mentre in Inghilterra si... E allora chi è che ha il compito di fare questo rapporto, diciamo, di sintetizzare questa enorme massa di dati della burocrazia, dell'amministrazione, diciamo luigina, del Re Sole, che ha raccolto, al duca, granduca, non mi ricordo più come si chiamano, di Boulainville. Ricordatevi che cos'è la genealogia, è frequentare opere poco note, leggere pergamene raschiate più volte. Io non c'è nessuna pergamena raschiata, ma insomma, Boulainville, ma chi è? Nessuno. No, sicuramente in Francia è un po' più noto che qua, ma dubito che sia un grande, nel Novecento non è che fosse un grande nome. Però lui va lì, si legge sta roba, vedete che recupera questi testi minori nei quali però, attenzione, sempre senza cercare, le cose sono dette pari, perché Boulainville, esattamente per istruire il duca di Borgogna, il giovane duca di Borgogna, riprende più o meno pari le stesse, soltanto che le applica alla storia francese. Nella storia francese è un po' più complicata di quella inglese, perché diciamo gli attori del gioco sono tre: sono i Galli, i Franchi o i Germani, che sono gli invasori, e i Romani. I Romani nella storia inglese ebbero un ruolo, ma nell'immaginario inglese non giocano poco, insomma, non si sono mai. Invece in questa ricostruzione francese giocano. Quindi qui abbiamo questo gioco a tre, Boulainville lo mette in un modo, i successori di Boulainville diciamo nell'altro, e qui a che cosa serve il ricordo dei Franchi o dei diciamo Germani? Serve ai nobili, che a Boulainville, quindi al partito di Boulainville che vuole contrastare l'assolutismo monarchico, per dire guardate che nella storia di Francia anche noi siamo il risultato di una invasione, cioè i pacifici Galli, che sarebbero più o meno l'equivalente dei sassoni, degli autoctoni, insomma, in Inghilterra. Noi siamo venuti da fuori dalla Germania, poi c'è la variante in realtà che i Franchi stavano già lì, che anche i Galli erano germani, perché erano tutti celti, cioè comincia sto mito dei celti che poi dilagherà per tutto il Novecento, insomma, i celti non è una nozione vaghissima, non si sa chi fossero tutti celti, comunque erano tutti celti, però che sia una invasione o che sia un diciamo ritorno a casa, fatto sta che è la nobiltà, cioè sono i nobili diciamo germani, i nobili franchi che arrivano, sottomettono il territorio che adesso si chiama Francia, eccetera, eccetera. Ma qui c'è il famoso episodio del vaso di Soissons, nel quale mi sembra Clodoveo, cioè il fondatore della dinastia, in realtà era Meroveo, ma insomma si chiamano Merovingi, però in realtà è poi Clodoveo, credo, che fonda la cosa. Nel corso di una ripartizione del bottino, cioè ha fatto una battaglia, ha preso il bottino, dice questo bel vaso, dice io vorrei questo vaso, fa il re, si alza un nobile e dice no, guarda che questo vaso in realtà ci avevo già messo gli occhi sopra io, lo sanno tutti, quindi molla lì. Ma va, dice, per il momento la cosa va così, però ovviamente Clodoveo se la lega al dito. Nella riunione successiva dei grandi capi Galli, eccetera, eccetera, quando questo qui c'è una specie di discussione, eccetera, e diciamo Clodoveo riconosce tra quelli che stanno questionando quello che gli ha fregato il vaso a Soissons, non mi ricordo più quanti anni prima, piglia una bella ascia e gli spacca la testa. L'episodio serve come metafora di come, secondo questi del partito della Comunità di Nobiltà, si sia istituito il potere reale, cioè come una violenza del re, cioè di uno solo, del rappresentante, contro questa sorta di società di uguali che era la società dei guerrieri germani o dei guerrieri franchi. Adesso ho fatto a grandissime linee, perché in realtà voglio arrivare all'ultima parte, perché nell'ultima giornata, nell'ultima lezione, cioè quella del 17 marzo del 76, Foucault, in un modo che adesso cercherò di spiegarvi, se ho il tempo, introduce uno dei concetti su cui che avranno maggiore fortuna conoscono una crescente fortuna, soprattutto in questi ultimi anni, di Foucault, che è quello di biopolitica o di biopotere, ma di cui in tutta l'opera di Foucault ci sono ben pochi rimandi, e sono i due rimandi fondamentali, sono esattamente quest'ultima lezione del corso Bisogna difendere la società e l'ultimo capitolo della Volontà di sapere, che è un libro che non a caso esce lo stesso anno del corso, 1976, quindi vuol dire. Ma come capita spesso in Foucault, poi viene, non dico abbandonato, ma addirittura c'è il caso clamoroso che è del corso, mi sembra del 78-79, che viene intitolato Nascita della biopolitica. Foucault parla le prime due lezioni di biopolitica, poi si mette a parlare d'altro. Allora, attenzione, non è che parla proprio d'altro, insomma, però introduce il concetto di governamentalità, parla soprattutto di un esempio storico recente, cioè quello dell'ordo liberalismo tedesco degli anni 50, su cui si basò tutta la ricostruzione economica della Germania occidentale, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, questa cosa non è così strana come noi, come dire, pensiamo. La cultura occidentale, io penso di tutte le epoche, ma in particolare quella degli ultimi due, insomma, dell'Ottocento e del Novecento, è piena di concetti, nozioni, idee, che il loro autore enuncia, non dico en passant, ma così, insomma, che occupano una parte limitata nel pensiero di questo autore, che poi hanno conoscono una fortuna, postuma nel senso, magari l'autore non è morto, nel caso di Foucault sì, perché il grande clamore sulla biopolitica viene negli anni successivi. In realtà questo concetto ha una coautrice, ha un'altra persona che forse potrebbe anche vantare una priorità cronologica con Foucault, che è Hannah Arendt, ma non vi parlerò di Hannah Arendt perché non l'ho studiata a sufficienza, Hannah Arendt in genere, e in particolare la sua versione del concetto di biopolitica, che per quel pochino che ho letto mi pare un pochino diversa da quella di Foucault. Comunque, chi vuole si approfondisce le cose e se la può andare a vedere, non c'è nulla di male. Ma volevo farvi semplicemente un paio di altri esempi per farvi capire che questa cosa non è affatto così strana, insomma, che in realtà una delle cose che ha avuto maggiore successo di Foucault sia stato, ce ne vari. Secondo me l'altro esempio più eclatante è quello di significante fluttuante di Lévi-Strauss. Il concetto di significante fluttuante di Lévi-Strauss, che è un concetto terribilmente fecondo, secondo me, perché è molto utile, ovviamente bisogna tenere conto che è stato enunciato ed inventato da uno dei più terribili universalisti del Novecento, ma insomma, però si possono usare pure i concetti degli universalisti, cioè basta saperli maneggiare. Lévi-Strauss ne parla in realtà approfonditamente in un saggio del 1950 che costituisce la prefazione alle opere di Marcel Mauss, che vengono edite in Francia in quell'anno lì. Marcel Mauss è morto da un pezzo, ma non sono ancora state raccolte. Marcel Mauss è uno dei cugino, nipote, non mi ricordo, di Durkheim, e uno dei fondatori dell'antropologia moderna, senza essersi mai mosso da Parigi. E quindi c'è la cosa, lui scrive questa cosa e dedica sono due pagine e mezza a questa cosa. E poi c'è qualche tratto, mi pare, qualche cosa di un saggio, che non mi ricordo dove, in antropologia strutturale 1, sì, in uno dei saggi della prima antologia di saggi chiamata Antologia strutturale, non più di due luoghi. Tutto il resto dell'opera di Lévi-Strauss pare indifferente o addirittura estranea, non dico contraria, ma indifferente o estranea a questo concetto di significante fluttuante, che invece probabilmente è una delle cose che poi negli anni, da Agamben a Côte de Leuze, nella logica del senso, diciamo Agamben, per ultimo Caronia, che naturalmente non vale neanche la pena dire, ma insomma un sacco di gente si è dedicata a questo concetto, perché gli posso dire, eppure lui non ne va come nulla. Idem questo concetto della come dire, biopolitica. Ora è interessante vedere come diciamo le parole con cui viene introdotto eccetera sono uguali, no, ma sono molto molto simili, addirittura alcuni come dire, passaggi nella lezione del 17 marzo e nell'ultimo capitolo della volontà di sapere. Direi che l'ultimo capitolo della volontà di sapere, che è il capitolo quinto, chiamato diritto di morte e potere sulla vita, obiettivamente è più in questo capitolo è più separato dagli altri quattro di quanto, cioè secondo me è introdotto più pertinentemente qua nel corso del 76 rispetto al libro del 76, ma forse è solo un mio, come dire, parere, una mia opinione, non ho perso il segno, no. Allora, la lezione precedente si è chiusa con, ve la leggo adesso, capirete perché, con un ennesimo attacco di Foucault alla diciamo, dialettica e alla filosofia della storia, che leggiamo un attimo così capiamo. Lui sta cercando di tirare le fila di questo discorso che io vi ho semplificato in maniera veramente obbrobriosa e riprovevole, ma insomma poi voi ve lo vedete meglio. Vi divertite molto di più a leggere Foucault che a sentire parlare. Per diciamo tirare le fila, dice che questo discorso, che quel discorso storico in qualche modo, quel discorso sulle razze eccetera eccetera, e ha fatto tutta una tirata sul nazismo, che più o meno è quella che vi ho fatto nella versione precedente, quindi non ve la ripeto adesso. E dice questo: la possibilità di una filosofia della storia vale a dire l'apparizione all'inizio del XIX secolo di una filosofia che troverà nella storia e nella pienezza del presente il momento in cui l'universale si enuncia nella sua verità. Siccome questo è un inciso lungo, poi ci torno, perché è una bella definizione di filosofia della storia, bella nel senso che si può anche massacrare meglio la filosofia della storia esposta così da tutto. Allora, la possibilità di una filosofia della storia, non dico solo che sia preparata dal discorso storico, dico addirittura che funziona già all'interno di tale discorso. Vi è stata un'autodialettizzazione del discorso storico che si è realizzata indipendentemente da ogni trasferimento esplicito o da ogni utilizzazione esplicita da una filosofia dialettica in direzione del discorso storico. Ma l'utilizzazione da parte della borghesia di un discorso storico, la modificazione da parte della stessa borghesia degli elementi fondamentali dell'intelligibilità storica che essa aveva ripreso dal XVIII secolo, ha rappresentato al contempo un'autodialettizzazione del discorso storico. Si comprende, peraltro, come abbiano potuto annodarsi dei rapporti tra discorso della storia e discorso della filosofia. In fondo, nel XVIII secolo, la filosofia della storia esisteva solo come speculazione sulla legge generale della storia. C'era, certo, ma era, dice, come è fatta la storia? La storia agisce così, Montesquieu, in tutto il XVIII secolo c'è una sorta di della storia, in tutto l'illuminismo, in tutta la Aufklärung, soprattutto, ma anche tedesca, certo, c'è anche in Kant, moderata, ma c'è. Ma è questa cosa, è una speculazione sulla legge generale della storia. Attenzione, invece a partire dal XIX secolo, ecco cosa, questa è l'acutezza di Foucault, comincia invece qualcosa di nuovo e credo di fondamentale. La storia e la filosofia arriveranno a porre la stessa comune domanda, eccola qua. Non era mai successo prima che la storia e la filosofia avessero una stessa domanda, forse non l'unica, ma una domanda così importante e comune. E la domanda è: che cosa nel presente reca l'universale? Che cosa nel presente costituisce la verità dell'universale? È la domanda della storia, ma è anche ormai la domanda della filosofia. La dialettica è nata. Questo è Hegel. È Hegel che più chiaramente di altri tenta di rileggere tutta la storia del mondo alla luce del presente, perché è il presente, secondo Hegel, che è gravido di quella sorta di compimento della storia che lui vede. Mi scuso se ho dato l'impressione nelle volte scorse, quando ho parlato di Hegel e della sua filosofia della storia, di appiattirla su una filosofia della storia di tipo biblico, direbbe insomma Foucault, di una lontana prospettiva, di una prospettiva in cui arriva ovviamente Dio, quando scende da Gerusalemme diciamo celeste sulla terra, come alla fine dell'Apocalisse abbiamo questa storia. Ovviamente non è così in Hegel. La fine della storia in Hegel è accuratamente, lentamente, minuziosamente, intelligentemente preparata, ecco. Però c'è sempre questa, cioè, come dire, il presente, dice, cercherò di riformulare quello che dice Foucault qua, perché mi pare pertinente con la questione della biopolitica dopo, in qualche modo, cercherò di riformularlo così. Il presente non è mai stato così significativo e così non è mai stato una chiave per la storia in modo così potente come all'inizio del XIX secolo. Banalmente, perché probabilmente l'inizio del XIX secolo è il momento in cui, se fossimo hegeliani diremmo lo spirito, se no diciamo gli esseri umani, si rendono conto di una sorta di accelerazione e di mutamento paradigmatico, cioè il capitalismo dalla sua fase senza nessun determinismo di tipo economico, ma il capitalismo con tutto quello che vuol dire, dalla sua fase iniziale sta ingranando le marce. Il motore del capitalismo comincia a macinare i suoi giri, il motore romba bene, il contagiri e la velocità vanno più di pari passo, se non, io non so, che non guido, quindi non so se si dice così, ma insomma, in quel periodo lì, è quello il momento in cui si capisce che siamo di fronte, che i nostri bisnonni o trisnonni erano di fronte a un, come dire, e qui sta la forza e la potenza dell'hegelismo. Non era mai successo che si leggesse il passato in funzione del presente, che si leggesse, sì, il passato in funzione del presente. Tutta l'escatologia precedente, tutte le filosofie della storia precedenti erano semmai una proiezione verso il futuro. Quella biblica tradizionale è così, il pensiero giudaico tradizionale è questo, dice ci sarà il radioso futuro, scenderà Gerusalemme. Ma questo è totalmente svincolato da come vanno le cose oggi. Può accadere pure ai tempi dei Maccabei, può accadere pure ai tempi della schiavitù babilonese, può accadere pure ai tempi dell'Egitto, ce lo mettono in quel posto, siamo fottuti, però noi sappiamo che alla fine Geova ci salverà. Cioè, questo è, diciamo, l'escatologismo classico. L'escatologismo hegeliano è totalmente diverso. L'escatologismo hegeliano è conoscenza scientifica, pensava lui, delle leggi della storia, e quindi succede questa cosa. Allora, vediamo che cosa c'entra questo con la biopolitica. La cosa viene enunciata rapidamente all'inizio della tesi. Dice: devo ormai cercare di dare una conclusione a ciò che ho detto quest'anno. Ho tentato di porre il problema della guerra, considerandolo come griglia di intellegibilità. L'ultima volta in particolare mi sono sforzato di mostrare come attraverso il principio dell'universalità nazionale, una cosa che non vi ho spiegato ma ve la leggete, la stessa nozione di guerra sia stata alla fine eliminata dall'analisi storica, perché poi spiega come a certo punto, come dire, la guerra è servita per fare quel cammino, a certo punto si può togliere nel lavoro degli storici francesi legittimisti di Thierry, eccetera, eccetera, e poi di Guizot, eccetera, pure quelli implicati nella Comune di Parigi. Oggi vorrei invece mostrarvi come il tema della razza fosse destinato non tanto a scomparire quanto a essere ripreso all'interno di qualcosa che è completamente diverso, costituito dal razzismo di Stato. E allora dalla nascita del razzismo di Stato che vorrei iniziare a parlarvi oggi, anche se solo per introdurre il problema. E voi capite che qua lui introduce la biopolitica perché vuole parlare di questo, perché vuole arrivare alla fine a parlare del nazismo. Mi sembra che uno dei fenomeni fondamentali del XIX secolo sia stato ciò che si potrebbe chiamare la presa in carico della vita da parte del potere. La presa in carico della vita da parte del potere. Devo fare una brevissima deviazione, ma anche qua, chissà perché Foucault è uno dei pensatori su quali circolano le sciocchezze più furibonde, anche su altri forse, ma mi pare che su di lui. Oggi i gazzettieri e i giornalisti, su cui ho già detto male a sufficienza, quindi evito di tornare sull'argomento, ma è pieno di giornali, la biopolitica, il biopotere, cioè, e si parla di biopolitica, ma in genere la biopolitica oggi viene vista fondamentalmente come l'intrusione o la capacità dello Stato di legiferare su alcune questioni specifiche della biologia, per esempio l'aborto, per esempio tutte le robe per esempio la gravidanza artificiale, tutte queste robe qua. Tutto questo insieme di cose, le cellule staminali, tutto, questa è la biopolitica. È una sciocchezza questa. Foucault non dice che, cioè, molto probabilmente c'è sempre stata una capacità, qualsiasi forma di sovranità ha sempre legiferato su alcune questioni, in modi, come dire, diversi. Allora, in realtà poi Foucault, siccome lo spiega molto bene qua, quindi non occorre che ve la legga, perché è più o meno negli stessi termini, poi la mette nella volontà di sapere. La formula che usa è questa. La démarche, l'approccio al problema dei rapporti fra il sovrano e i suoi sudditi all'interno del potere sovrano tradizionale è essenzialmente una capacità di intervento sul lato della morte. Il potere viene tradizionalmente chiamato potere di vita e di morte, ma in realtà non è, c'è una dissimmetria. Foucault ha già scritto e ha già pubblicato 3 anni prima Sorvegliare e punire, che si apre esattamente con la descrizione della, chiamiamola, società suppliziale, della società del supplizio, del potere assoluto tradizionale, il cui gesto politico principale, fondamentale, sono due fondamentalmente: quando viene incoronato il re, e allora grande festa, il popolo accorre, guarda la vecchia si incorona, secondo quando viene giustiziato qualcuno, è il supplizio del criminale che costituisce il grande spettacolo, spettacolo non in senso debordiano, il grande spettacolo in senso diciamo tradizionale, che è quello che appassiona il popolo, è quello che costituisce il legame di quel tipo di sovrano con il suo popolo. Quindi Foucault dice in qualche modo, insomma, la sovranità assoluta tradizionale di questo tipo è una sovranità nella quale il popolo, la gente, il suddito viene lasciato vivere o viene fatto morire. Il suddito vive e sono fatti suoi come vive, certo, mi deve pagare le tasse, deve pagare le cose, eccetera, ma poi io Stato, io re, io come sovrano, nella sua vita privata e soprattutto diciamo, per quanto riguarda la base biologica, lascio fare alla natura. Sto concetto di natura, guardate, che è anche in un pseudo filosofo, in un pensatore, in un farfugliatore di idee, a volte, però molto interessante, come Sad, che pure scrive a diciamo, ridosso della... Anche Sad, tutto sommato, ha questa diciamo, concezione, sia della sovranità che della diciamo, natura. In che cosa consiste quello che fanno i personaggi di Sad, quello che faceva probabilmente pure lui nella vita? Infligge supplizi a maschi e femmine indiscriminatamente, peraltro perché è molto ugualitario da questo punto di vista, maschi si incula ragazzini, fa tutto quello che non è che siano, e per il resto, e come si giustifica? Dice, perché questa è, nelle lunghe cose, adesso sto leggendo, che non l'avevo mai letta, la Nouvelle Justine, è noiosissimo perché ogni quattro cose sono, cioè le scene di sesso ci sono, sì, sono, però dopo la decima sono tutte uguali, insomma. Ma la cosa più autentica è che c'è ogni 20 pagine c'è un dibattito sul perché il libertino è giustificato a fare queste cose qua. E perché? Perché la natura è la natura. La cultura è tutta una contraffazione, una degenerazione, eccetera, eccetera, ma la diciamo natura. Ora, se ci pensate bene, questo è l'analogo, cioè perché non si interviene sulla vita? Perché la natura c'è, fa il suo corso, fa i fatti suoi, quindi certo c'è poi la legge, tu infrangi la legge, allora io ti faccio morire tra atroci supplici, andatevi a leggere le prime cose, che io avevo 30 anni e poco più quando lessi la prima volta su Vogliare Punire, ma insomma ci sono alcune descrizioni di ste robe che fanno veramente raccapricciare. Il biopotere, cioè la svolta del biopotere, avviene quando questa formula si rovescia. Il potere non consiste più all'epoca del biopotere nel lasciar vivere e fare morire, ma nel, attenzione, lasciar morire sino a un certo punto, sino a un certo punto, dico io, aggiungo io, questo Foucault non lo dice, nel comunque lasciar morire proprio quando non ce la facciamo più, cercare di farlo il più tardi possibile, eccetera, ma a un certo punto lasciare morire e fare vivere. L'intervento del potere avviene direttamente, ma non sull'aborto, non sulle cellule staminali, in generale avviene sui fenomeni biologici. Allora, in tutta la sua carriera precedente, al 1976, carriera, sulla sua ricerca precedente, al 1976, Foucault ha cercato di spiegare come non dalle ceneri, ma da una trasformazione, da una complessificazione della società della sovranità assoluta, cioè del supplizio come spettacolo, fosse nata quell'altra società che è la società tipica degli inizi della modernità, 600-700, che è quella che lui chiama la società disciplinare. Che cos'è la società disciplinare? È la società nella quale il potere prende in carico, si occupa, attenzione, del singolo, del, dei singoli corpi come fosse uno per uno, certo in maniera collettiva, ma opera una serie di pratiche indirizzate al singolo corpo. Addestriamo il soldatino a marciare, come si marcia, come si cammina. Addestriamo lo scolaro a stare seduto per 5 ore, 6 ore, 8 ore, una tortura inenarrabile, come voi adesso e me per 2 ore. Cioè addestriamo gli esseri umani a fare delle cose che normalmente non farebbero, e quindi poi, dopodiché lo fate notare, questa è la disciplina, li discipliniamo. Sorvegliare e punire per la prima volta, poi in molti dei corsi successivi, Foucault utilizza ovviamente l'analisi marziana e connette questa questione, come è ovvio, con la questione della fabbrica, ma combatte la, con la visione marziana volgare e semplicistica che la disciplina sia nata per addestrare la gente alla fabbrica. La disciplina è nata in genere per addestrare la gente. La fabbrica nascente ha largamente ovviamente utilizzato queste tecniche che sono precedenti, però che nascono da prima della fabbrica, non che non ci fossero anche negli eserciti antichi eccetera, ma la società disciplinare prende una serie di tecniche di comparti specifici, per esempio quelli dell'esercito militare, e la generalizza a tutta la società. Molto spesso si parla, e a sproposito anche qua secondo me, Foucault, di una dicotomia tra società disciplinare e società di controllo. Come se Foucault avesse detto: a un certo punto smette di funzionare la disciplina perché arriva al controllo. Che cos'è sto diavolo di controllo? Qualcuno sono gli stessi esseri umani che autodisciplinandosi si autocontrollano. Questo c'è anche nella società disciplinare. Quando tu hai addestrato un bambino a stare fermo per 5 ore, 4 ore, 6 ore al giorno, per tutti i giorni della tua vita, tranne d'estate, dopo i primi 6 mesi, dopo il primo anno, lui è abituato, cioè lo farà da solo, non è che devi frustarlo per farlo stare seduto. Il soldato marcerà da solo, non è che devi frustarlo come nell'esercito persiano per farlo, combattere. È del tutto ovvio che la società disciplinare dentro di sé ha una dimensione di controllo e di autodisciplina. Anzi, il dressage, la disciplina, il dressment, serve esattamente per abituare i corpi a fare certe robe che devono fare e per abituarli a fare da soli. Per fare questo bisogna disciplinarli. Ecco la contrapposizione in Foucault è tra supplizio e disciplina. Il supplizio è qualcosa che accade una volta sola, porta alla morte del corpo, cioè il corpo suppliziato è un corpo inutilizzabile, non mi serve più a nulla, non c'è più. Il corpo disciplinato è un corpo docile, l'aggettivo docile ricorre costantemente nelle cose, e serve a fare delle cose, serve a produrre, serve a combattere, serve eccetera eccetera eccetera. Il panopticon, il controllo del panopticon è implicito nella società disciplinare, non c'è nessuna. Il vero paradigma, il vero salto di qualità si ha quando, attenzione, non finisce, non smette la società disciplinare, c'è sempre la disciplina, è ovvio, l'addestramento, il dressage c'è sempre, le scuole funzionano sempre così, i carceri funzionano sempre uguali, ma le relazioni di potere sono diventate più complesse, le relazioni di potere sono in grado, si dimostrano in grado nel corso del XIX secolo di fare qualche cosa di più, attenzione, di più specifico ma non di più individualizzato. Le tecniche realmente individuali per Foucault rimangono quelle della disciplina, è la disciplina che si rivolge al singolo corpo, certo in modo uguale per tutti i corpi, ma si rivolge al singolo, ha un effetto diretto, misurabile, classificabile sul singolo corpo. Non occorre fare una statistica per vedere se un battaglione marcia ordinato, se vince una battaglia, se una classe di studenti è tranquilla e se passa i suoi esami a fine anno in maniera decente. È il biopotere, viceversa, che passa su un'altra dimensione. È come se, questa è mia, non adesso io mescolo i miei commenti, poi voi sarete certamente in grado di scioverare le stupidaggini che mi vengono in testa dal testo foucaultiano reale leggendolo. È come se nella sua fase disciplinare il potere non avesse ancora raggiunto un sufficiente livello di complessità e di generalità, perché dice Foucault quello che il biopotere riesce a fare è di intervenire sull'uomo non come individuo ma come specie, cioè in qualche maniera indirizzare, elaborare, dirigere, dare un senso, dare una finalità. Adesso capite perché vi ho letto quella storia, quel pezzo sulla filosofia della storia? Tutto questo è implicito in Foucault, perché purtroppo Foucault non ha mai sviluppato davvero questo concetto del biopotere, ma se ci pensate un attimo non credo che sia così abnorme sostenere, che si potrebbe sostenere azzardo questa formula, che in qualche maniera il biopotere sia una specie, un tentativo da parte dello Stato moderno o iper, moderno, di realizzare davvero nei fatti una filosofia della storia, di rendere significativo il presente non più soltanto perché ci sarà la connessione con il futuro, con la fine della storia, ma nell'introdurre la finalizzazione all'interno dello stesso processo storico, all'interno dello stesso presente. Ecco la grande novità del biopotere: non le cellule staminali, non l'aborto, non la regolazione delle nascite, è l'intera vita degli esseri umani come specie che diventa oggetto di una pratica di governo, che diventa oggetto di una pratica di amministrazione. Si possono finalmente amministrare i geni della vita. E allora voi capite perché, scusate se torno alle mie ai miei temi prediletti, perché la figura fondamentale della società disciplinare è l'automa e perché la figura fondamentale del biopotere è il cyborg, perché i corpi nella società disciplinare tendono a essere modellizzati, tutti devono fare la stessa cosa, singolarmente si diventa degli automi. Nella società del biopotere io Stato ho una tale potenza, una tale possibilità di intervento sui processi vitali, sui processi della vita, che non mi interessa più di rendere così banalmente e ufficialmente, visivamente uniforme la società. La società può anche essere variata, la gente si può vestire come vuole, può avere anche le preferenze sessuali che vuole, può amare il sesso opposto, il proprio sesso, tutti e due, i venusiani che ne hanno 5 di sessi, i marziani che hanno 7 peni e 12 vagine, può fare quello che gli pare, tanto perché tanto è andato più a fondo il potere, controlla un livello che prima non controllava, è in grado di controllare un livello che prima non controllava. Ora, se questa non è la realizzazione della filosofia della storia, se questo, se questo non è il rendere pratica quotidiana quello che per tutto un periodo è stato puramente un orizzonte ideale, puramente una sorta, ecco perché non serve più l'utopia. L'utopia serviva sino a che la capacità di governo preciso su questi processi non c'era. E quindi si poteva fantasticare sulla società perfetta, su cosa si poteva fare, ma scusate se cito sempre, ma la famosa, per chi ha letto Dick, battuta delle tre firme di Palmer Eldritch, in cui Palmer Eldritch dice, ma che volete da Dio? Dio vi promette l'immortalità, io posso vendervela, io la metto sul mercato l'immortalità. Quando l'immortalità per questo il transumanesimo mi spiace per i suoi sostenitori è il più perfetto come dire, apologeta della società del biopotere, ma dalla parte del biopotere, non dalla parte del bio suddito, insomma, dalla parte di quello che lo maneggia il biopotere. Quando l'immortalità, quando la modificazione del codice genetico, quando tutto questo diventano oggetto di pratica quotidiana, possono fare parte di un programma di governo, possono fare parte, è quello che si studia nei laboratori di biologia, in quelli di informatica e nei corsi di sociologia, perché come dire, c'è una integrazione di tutte le varie nostre, come dire, dimensioni. Naturalmente questo comporta una cosa, anche questo è implicito forse in qualcosa che dice Foucault, ma purtroppo non è sviluppato, ma chi lo vuole sviluppare è liberissimo di farlo, chi ha una testa un po' più fresca della mia lo può fare. Ho già tanto divagato, mi sono già dimenticato quello che volevo dire, ma verrà fuori, rispunterà adesso fra i miei circuitini diciamo neuronali, va bene finché non colgo. Allora, insomma, per diciamo, concludere, perché mi pare che non abbiamo più neanche tanto tempo, no, c'è ancora qualche minuto, c'è. Insomma, è un'altra cosa, ma quella mi verrà in mente dopo se mi viene. La vera ragione in realtà per la quale c'è tutto questo interesse oggi nei confronti del concetto di biopotere è perché di fatto le trasformazioni del capitalismo, che ai tempi in cui Foucault stava scrivendo queste cose, erano in fieri, in gestazione, 1975-76, ma sino alla morte di Foucault non divennero visibili, non divennero, perché divennero visibili soltanto durante il corso degli anni 80 e probabilmente durante la seconda metà, cioè quello che si chiama il capitalismo post-fordista, il capitalismo della conoscenza, il capitalismo... Ma è esattamente questo. Che cos'è il capitalismo della conoscenza? Che cos'è la capacità? E allora voi, come dire, vedete che quello che Foucault descrive a livello della capacità del potere di intervenire è la stessa cosa che l'economia ha fatto nel suo campo e nel capitale. Che cos'è questo nuovo capitalismo se non la capacità di far entrare all'interno del processo di valorizzazione, della creazione di valore economico, tutti quei campi che erano rimasti fuori tradizionalmente, che il primo capitalismo, pur avendone probabilmente la, come dire, vocazione, perché diciamo, il capitalismo è di per sé una società, è la società più totalitaria che ci sia nella storia, non perché sia totalitario nei termini delle forme di potere, anzi no, è molto tollerante su questo, anzi può essere, come dire, il suo totalitarismo sta nella pretesa di, mi esprimerò così, di gestire tutti i modi e tutte le vie possibili con le quali rendere felici gli esseri umani. Questa è una prospettiva angosciosa, per me angosciosa. Se c'è qualcuno, e peggio ancora se c'è qualcuno che non so chi è perché è un meccanismo, perché è una struttura impersonale, che è in grado di sapere il modo in cui io voglio realizzarmi, il modo in cui io voglio essere felice, il modo in cui io voglio costruire la mia vita, e me lo dà sotto forma di prodotto costruito, distribuito e venduto anche ad un prezzo modico, perché la cosa orrenda e vomitevole del capitalismo contemporaneo, non è il teschio d'oro di Damian East o le 120 ville di Berlusconi o tutte queste, non è l'ostentazione, non è questo, sono i dati Knorr o come diavolo si chiamano, sono tutto questo enorme quantità di cibi biologici fatti industrialmente al prezzo più basso, sono la capacità di questa economia. E questa cos'è se non biopolitica? Cos'è se non biopolitica? Biopolitica, bioeconomia, cioè è una forza straordinaria che Foucault fu in grado di vedere perché la sua strada lo portava a questa formulazione, quindi lui arrivò a questa che fu già terribilmente, come dire, feconda, che ci consente di diciamo, capire. È impossibile, io credo, parlare della dimensione politica contemporanea senza fare riferimento ad un concetto simile a quello di biopotere. In altri termini, voglio chiudere con un disclaimer. Non voglio affatto dire che le cose non potevano che andare così, no, certo, le cose sono andate. Le cose possono sempre andare diversamente, sempre. Non esiste, cioè il nuovo capitalismo, il capitalismo immateriale, il capitalismo della conoscenza, il capitalismo post-fordista non è l'approdo ineluttabile del capitalismo. Io continuo a pensare che all'interno, e se continuo a pensare che tutta questa situazione possa essere cambiata, possa essere rovesciata, è per questo. Perché dietro a tutta questa macchina, a tutto questo dispositivo, questo insieme di dispositivi di biopotere contemporanei, ci sta esattamente lo stesso sogno, lo stesso errore che sta dietro all'equivoco dell'intelligenza artificiale e della diciamo, meccanizzazione del linguaggio. E cioè che tutta questa cosa si basa su una riduzione arbitraria del linguaggio ad un insieme di algoritmi, della vita umana a un insieme di accadimenti più o meno programmati, della felicità umana a una serie di desideri astrattamente incasellabili, ma come vi ho già detto siamo, per nostra fortuna io penso, siamo nella bottega della pecora di Lewis Carroll e c'è sempre un oggetto che noi guardiamo e che ogni volta che tentiamo di inseguirlo non sta in nessuno degli scaffali e quindi la pecora non ce lo può prendere e non ce lo può dare. Questo è il significante fluttuante, questa è la ricchezza del linguaggio sul mondo e conversamente anche, diciamo di converso, la ricchezza del mondo sul linguaggio. Io perciò continuo a sperare che non prevarranno. Ci vediamo le prossime volte. Ciao.